e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno a voi, buona settimana, si ricomincia. Come è andato il weekend? È andato molto bene, ti ringrazio. Sono andata a vedere la partita di calcio di mio nipote, mi sono divertita molto, sotto la pioggia battente, ma lui coraggiosissimo è andato avanti fino alla fine del match. Vedi, le zie sono donne di cuore. Voi che cosa avete fatto questo weekend? Anche un po' di denari, perché abbiamo comprato la maglietta termica. Brava, quella ci vuole. Quella ci vuole in questo periodo, guarda. Allora, sì, avete fatto delle cose più di cuore o quante di denari? 800 024 0024, andiamo subito alla nostra rassegna stampa. E allora, la rassegna stampa con cui apriamo la settimana questa volta è di denari, perché dobbiamo aprire la nostra trasmissione naturalmente dando un'occhiata a come si apre la settimana finanziaria, la settimana di borsa, e vedo il segno meno prevalente: calo di Londra dello 0,29%, Parigi meno 0,26%, Francoforte meno 0,07%, Milano un po' più pesante, perde quasi lo 0,7%. Ci sono cali diffusi di nuovo sui titoli bancari, finanziari e assicurativi. Il peggiore però Salvatore Ferragamo, sta perdendo quasi 3 punti, mentre troviamo dall'altra parte della classifica, con un rialzo di circa 0,5 punto percentuale, Terna, STM, Yuxe, Net-a-Porter. Per fare il commento sui fatti del giorno, i fatti della settimana, ma anche sui fatti che hanno movimentato la borsa settimana scorsa, anche questa mattina abbiamo interpellato Alfonso Maglio, portfolio manager di Marzotto Sim, che salutiamo. Benvenuto e buon inizio settimana anche a lei. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, eccola qua, il microfono andrebbe aperto in radio. Ti svelo questo segreto, Nicoletta. Lei vuole parlare, però no, me lo spegne. Volevo salutare il nostro ospite, certo, e augurargli una buona settimana. Eccoci qua. Grazie. D'altronde, buona settimana a tutti. Iniziandola con noi, non può far altro che farla partire bene. Allora, certo, abbiamo avuto in particolar modo due fatti molto importanti nella giornata di venerdì. La sterlina è precipitata sul dollaro, ai minimi da 31 anni a questa parte. In realtà era su questi livelli già da un po', ma c'è stato questo giallo sul mercato delle valute venerdì, perché ad un certo momento, pare per questione di algoritmi, pare per una questione appunto che in gergo finanziario si chiama flash crash, in sostanza in un certo momento del pomeriggio la sterlina ha avuto proprio uno scossone molto allarmante nei confronti del dollaro. Detto questo, questa svalutazione molto forte sta facendo correre la borsa di Londra, che è ai massimi da un anno e mezzo a questa parte. L'altro tema di venerdì scorso è stato invece il dato sulla disoccupazione americana, che è stata un po' più deludente delle attese. Allora Maglio, io direi di partire da qui: quanto hanno disturbato questi due fatti venerdì scorso, e forse ancora qualche strascico c'è anche in questo inizio di settimana? Certo, beh, allora, analizzando la situazione nel contesto, così per avere una visione d'insieme, questi sono fenomeni che non fanno altro che rafforzare l'idea del clima di incertezza e di nervosismo che c'è sul mercato. Per quanto riguarda la sterlina, inizialmente si pensava ad un errore nelle contrattazioni. Questo però poi è stato smentito, perché se ci fosse stato un errore ci sarebbe stato poi un riallineamento delle quotazioni. Questo non è accaduto, la sterlina è ancora a 0,90 stamattina ed è ancora in pressioni di vendita, per cui possiamo spiegare questo movimento della sterlina come una maggiore consapevolezza dell'avvicinarsi della fatidica data del marzo 2017, entro il quale dovremmo avere poi dei feedback, così delle situazioni più concrete circa come avverrà il distacco da parte dell'Inghilterra in seguito al referendum Brexit. Quindi è come se ci fosse una lenta presa di coscienza da parte degli operatori circa questo fenomeno. Questo è probabilmente il motivo per cui la sterlina si è indebolita in questo modo. L'altro fatto che citava, quello relativo al dato macro dei payrolls, è un dato effettivamente sotto le attese, ed anche qua probabilmente potrebbe essere letto congiuntamente all'evento di questa settimana, durante la quale saranno rilasciate le minute del meeting del mese scorso della Fed. Per sono praticamente cogliere... i verbali dell'ultima riunione della Banca Centrale Americana. Un verbalone nel quale la Fed spiega un po' come è andata l'economia e cosa pensa. E queste sono proprio occasioni durante le quali si cerca di leggere eventuali messaggi, a volte anche sibillini, abbiamo visto per il passato, per capire come andrà la politica monetaria visto che siamo tutti in attesa di questo nuovo rialzo dei tassi di interesse, forse un altro 0,25% a dicembre, ma in realtà non ne siamo poi così sicuri al 100%. No, il dato che ci dava è un dato che va nella direzione opposta, certo, tra l'altro. Esatto. A proposito di banche centrali, altro tema che ha reso un po' nervosi i mercati settimana scorsa è stato questa indicazione che è arrivata da più parti, secondo la quale la Banca Centrale Europea sarebbe pronta a partire da marzo prossimo, quando termineranno formalmente, ad interrompere questo ciclo di stimoli monetari che sono contenuti nel cosiddetto quantitative easing, cioè l'acquisto mensile di titoli di Stato e anche di obbligazioni societarie per un determinato ammontare, appunto, da parte della Banca Centrale Europea. Secondo lei, Mario Draghi ha dovuto rassicurare la comunità finanziaria dicendo no, andremo avanti fino a quando sarà necessario, ma in realtà che cosa ha turbato un po' nel pronunciamento di alcune figure di mercato su questo tema, Maglio? Sì, questo è stato un po' il giallo, se così possiamo dire, della settimana scorsa, perché queste voci che sono state diffuse da funzionari della Banca Centrale Europea, non è stato specificato null'altro, non ci sono i nomi e cognomi, è stato detto che ECB officials, quindi appunto dei dirigenti e dei funzionari della Banca Centrale Europea, pare abbiano detto che qualora si dovesse ridurre il programma di acquisti, questo verrebbe fatto ad un ritmo di 10 miliardi al mese, e questo ha una sua valenza. Ovviamente, ricollegandoci al tema un po' del nervosismo generalizzato del mercato, in particolare del mercato delle obbligazioni, che è, possiamo dire, un po' anestetizzato da queste politiche della Banca Centrale Europea, il mercato ha dato l'interpretazione che più gradiva e quindi ha detto ok, questi stanno riducendo il programma di acquisti, cosa che invece non è vera, appunto, perché come si diceva poi Draghi ha smentito. Però questo poi l'effetto l'ha prodotto, perché in particolare i titoli di Stato e tutto il mercato obbligazionario ha avuto un bello scossone che, certo, non ha ancora recuperato. Allora, è stato un po'. Infatti, allora andiamo all'altro tema che magari può interessare molto anche noi, lo stato di salute delle banche in Europa e anche in Italia. Siamo ancora un po' tutti appesi al destino di Deutsche Bank, ma più in generale siamo in attesa anche di schiarite su soluzioni relative ad alcune banche italiane. Per Monte dei Paschi c'è una situazione sempre più complessa. Il Sole 24 Ore in questi giorni ha scritto che il gruppo è pronto a cedere il maxi pacchetto di sofferenze in portafoglio, che è molto rilevante, poi c'è attesa per la prossima assemblea dei soci, per la presentazione del piano industriale e soprattutto per la sua ricapitalizzazione. Detto questo, su quali temi dovremo concentrarci nei prossimi giorni, Maglio? Allora, in ambito domestico sicuramente la banca sistemica più importante e oggetto anche di cronaca e di fatti importanti è appunto il Monte Paschi. Monte Paschi probabilmente la banca che ha visto il suo programma di ristrutturazione mutare più volte nel corso degli ultimi mesi. Il 24 ottobre ci sarà la presentazione del piano industriale, successivamente in novembre ci sarà l'assemblea dei soci durante la quale sarà approvato il piano di ristrutturazione. Il punto nodale, secondo noi, è sicuramente la dismissione dei prestiti incagliati, non performanti, per i quali in qualche modo noi pensiamo si troverà una soluzione, ma il problema primario è l'aumento di capitale. Ad oggi l'aumento di capitale stimato è di 5 miliardi ed è impensabile che il mercato aderisca per una cifra così. E lo si è visto chiaramente dal fatto che ha venduto a man bassa appunto i titoli, per cui chiaramente molti azionisti non vogliono partecipare, altrimenti se li sarebbero tenuti. Esatto. Senta Maglio, velocemente, purtroppo non riesco a farle concludere il ragionamento. Dobbiamo parlare anche delle BTP da 50 anni che ha emesso il Tesoro italiano. Lo faremo in un'altra puntata, magari mettendolo a confronto con il BTP Italia che viene lanciato settimana prossima, sempre appunto sul mercato degli investitori retail. In 5 secondi, due argomenti da tenere sotto controllo nei prossimi giorni. Inizia anche la stagione delle trimestrali negli Stati Uniti, domani. Sì, allora, in linea generale, la stagione degli utili, che ci dà un po' il polso del tessuto aziendale in Italia, in Europa e ovviamente un po' ovunque, in particolar modo in America, che è il mercato più sviluppato. Domani 11, occhi puntati sullo ZEV tedesco, che è un indice che indica il sentiment economico di 350 analisti intervistati, e poi mercoledì come si diceva, i verbali della Fed, durante i quali potremo cogliere eventuali segnali o comunque avere un'indicazione maggiormente di polso di dove sta andando l'economia americana. Poi ce ne sono altri, ma questi sono i più rilevanti. Diciamo che voi considerate un filino minori. Grazie ad Alfonso Maglio, Marzotto Sim, buona giornata. Grazie molte. Noi intanto, Nicoletta, direi che possiamo andare a sentire cosa succede sulle strade italiane e poi pronti per la rassegna stampa di cuore. Cuore e denari. Ed eccoci qua, c'è un cerchietto rosso sull'agenda di cuore, sulla data di oggi. A fianco ho anche messo un omino che cammina, in realtà uno sgorbietto. Volerlo vedere comunque sembra che cammini. Oggi è l'Obesity Day, è un appuntamento che è arrivato alla sua 16ª edizione. È una giornata che l'Associazione Dietisti Italiani ha organizzato proprio per sensibilizzarci all'importanza del controllo del peso e soprattutto alla prevenzione del sovrappeso, di cui conosciamo bene tutti gli effetti negativi sulla nostra salute. In linea con noi oggi è tornato a trovarci il dottor Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e direttore di Diabetologia e Dietologia all'Ospedale di Terni. Ma bentornato, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, mangiamo troppo male, ci muoviamo poco, siamo spesso allettati da promesse miracolose che seguiamo con la speranza di rimetterci in forma in poco tempo, soprattutto senza fatica. Però, professor Fatati, gira e rigira, alla fine ci troviamo sempre più appesantiti e pigri. Per l'edizione di quest'anno voi avete scelto come slogan camminare per stare bene, a sottolineare ancora una volta che basta poco per mantenersi o rimettersi in forma, non sono richiesti grandi sacrifici o particolari investimenti di tempo e di denaro. Professore. Sicuramente sì, è uno slogan semplice ma non semplicistico. L'obesità continua a essere un problema importante e crescente nella nostra società, così come la pigrizia e i nostri comportamenti. Oggi, con un termine scientifico, si dice che se vogliamo che la nostra sanità sia sostenibile dobbiamo cercare di mettere in atto dei presidi epigenetici positivi, ossia non possiamo cambiare la nostra come siamo, ma possiamo, come siamo stati programmati, ma possiamo cambiare il nostro modo di essere, ossia l'espressione dei geni, il nostro fenotipo, e il modo migliore e più semplice per cambiarlo è proprio quello del camminare, ossia tornare all'attività fisica. L'attività fisica è il momento epigenetico positivo più forte che abbiamo e è verosimilmente l'unica via di uscita per convincere le persone a perdere un po' di peso. Tutte le volte che camminiamo riattiviamo il nostro metabolismo, il nostro fitness metabolico, miglioriamo sia la nostra qualità di vita che la nostra quantità di vita, per cui dietro allo slogan è molto semplice, camminare e salute, c'è un background scientifico importante. Professor Fatati, dovremmo far camminare anche i nostri bambini, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Il 20,9% dei bambini nella fascia di età tra gli 8 e i 9 anni è sovrappeso, il 9,8% è obeso, ed questo è un dato su cui non possiamo fare a meno di riflettere, perché il sovrappeso nell'età infantile, le ricerche, i dati ce lo sottolineano bene, è un fattore di rischio importantissimo che può condizionare la salute in età adulta. Quindi dobbiamo cambiare atteggiamento e iniziare a pensare al sovrappeso in modo diverso. Non è solo un problema estetico, come molto spesso noi adulti pensiamo, quindi non dimagrisco per essere più bello, per mettermi il vestito un po' in linea con i dettami della moda, ma devo perdere peso o mi mantengo in forma per stare bene. E per i bambini vale la stessa cosa, e la vorrei sottolineare ancora, non per fare la maestrina, ma spesso noi pensiamo che il bambino, per essere pieno di salute, scoppiare di salute, deve essere cicciottello. Non è proprio così, professor Fatati. Ecco, perché quando il bambino, quando lo si vede bello in carne, dice un bambino che scoppia di salute. Ecco, noi abbiamo ancora questa nostra remora, questo nostro luogo comune, no? Nel dopoguerra chiaramente il bambino cicciottello era il bambino in salute rispetto al malnutrito. Oggi non è. Non è così, sicuramente. Vuole che le dia un rimedio un po' di erisimo? Un po' di in diretta? Non credo. perché i bambini è lo stesso problema, i bambini fanno proprio poca attività fisica, sono sicuramente meno forti, meno muscolari dei bambini di 20 anni fa, consumano di meno e quindi sono assolutamente brutali. La stiamo perdendo. Dove mi sta camminando, professor Fatati? No, io sto fermo in macchina perché stavo in macchina e mi sono fermato. Bravo. Quindi, dicevo, il bambino deve recuperare un po' l'uso corretto di tutti gli arti, prima di tutti le gambe. Per questo proprio a Terni abbiamo messo in atto un esperimento che è Beat the Street, cercare di far camminare tutta la città. Abbiamo un obiettivo, quello di fare in 6 settimane 400.000 chilometri e i primi punti di contatto sono proprio le scuole. Abbiamo diviso le scuole della città in squadre e andiamo ad insegnare anche ai bambini, a ricordare anche ai bambini che camminare è bello e fare attività fisica è ancora più bello. Ci sono tante iniziative, il pedibus, bambini che vengono, che il vanno pedibus a accompagnare i genitori che accompagnano i bambini a piedi a scuola. Segnalatecele nelle vostre città quali sono le iniziative che promuovono proprio l'attività fisica per i bambini ma anche per gli adulti, perché spesso accanto ad un bambino c'è un adulto e queste buone pratiche sono in qualche modo contagiosa. Professore, tra le varie iniziative voglio segnalarne una su cui sono sicura che anche voi come ADI sarete d'accordo, che è Frutta nelle scuole, la campagna dell'Unione Europea coordinata anche in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per la quale proprio accanto alla fornitura di frutta gratuita ai bambini delle scuole primarie sono state anche previste specifiche misure di accompagnamento, e cioè attività didattiche educative che puntano proprio a educare i bambini e cercare di contrastare le cattive abitudini alimentari dei bambini, della serie, insomma, insegnare ai bambini che una mela al giorno può togliere il medico di torno. Vogliamo tenere lontani, anche voi sareste più contenti, tutto sommato, no? Assolutamente sì, no? Tutte le iniziative che danno educazione alimentare ai bambini e che portano un po' i dettami, che sono quelli importanti della dieta mediterranea, noi le sosteniamo e siamo felici che vengano messe in atto. C'è bisogno di ritornare anche su temi apparentemente scontati, perché in realtà in questi anni, ce lo dobbiamo dire, i nostri messaggi ne abbiamo dati tanti ma ne sono passati pochi, quindi dobbiamo continuare a insistere. Ecco perché l'Obesity Day, giunto alla 16ª edizione, spero continui ad andare avanti, perché è un modo ricordare delle cose che sembrano scontate ma così non sono. Ecco, per la giornata di oggi noi possiamo suggerire ai nostri amici di camminare a un centro ADI vicino a casa loro. L'elenco dei centri che hanno aderito a questa iniziativa lo trovate sul sito ADI. E per iniziare con il passo giusto a camminare, naturalmente noi vi aspettiamo nella seconda parte della trasmissione e avremo il piacere di avere un grande esperto che ci insegnerà proprio a fare i passi giusti per cominciare bene. Intanto voglio leggervi un messaggio di Carlo che ci scrive da Latina. Professor Fatati, sarà soddisfatto? 5 giorni alla settimana, dalle 12 alle 13, camminata di 3 chilometri al mare, pochi ma sempre, voglia pari a 0, ci scrive Carlo, bene, benefici immensi. Professore. Complimenti all'ascoltatore che ha scritto. È proprio questo, la costanza, il fare un piccolo passo per volta e cercare di riallenarsi a muoverci e avere uno stile di vita più attivo. Bastano anche dei piccoli movimenti o ritornare un pochettino a fare quei piccoli lavoretti domestici che una volta facevamo, ecco, e che adesso vediamo in malo così. Basta aiutare anche la moglie a fare i lavori domestici. Professor Fatati, grazie, buona giornata. Andiamo al nostro GR, grazie. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Pianta, la Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Su Radio 24 tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Cuore e denari. Allora, adesso riprendiamo Cuore e denari parlando di lavoro, uno dei temi preferiti della nostra trasmissione. Parliamo di una popolazione di lavoratori della quale ci siamo occupati spesso, cinquantenni ed over cinquantenni, e ce ne siamo occupati in passato perché spesso quando si perde il lavoro a questa età ricollocarsi è difficilissimo. Abbiamo raccolto molte volte tante testimonianze accorate da parte di persone che vivono questo frangente anagrafico in questa modalità problematica. Oggi ne vogliamo parlare da un punto di vista diverso. Lo facciamo grazie ad una corposa indagine che è stata condotta da Randstad, è una società leader a livello mondiale nella ricerca, selezione e formazione di risorse umane e somministrazione di lavoro. La divisione italiana di Randstad ha condotto un'inchiesta fra decine e decine di aziende italiane per capire come queste stanno affrontando la sfida, lo dico all'inglese ma ve lo spiego subito anche in termini semplici in italiano, dell'active aging, in sostanza l'invecchiamento attivo. Anche questo è un modo molto interessante per raccontarvi come sta cambiando il mondo del lavoro e il mercato del lavoro, perché il quadro che emerge da questa indagine non è proprio che sia brillantissimo, ma è un po' in chiaroscuro, considerato che non tutte le aziende stanno gestendo con facilità questa sfida, cioè valorizzare al meglio i lavoratori senior. Ecco perché Randstad le ha invitate, queste aziende, ad effettuare una mappatura dei propri dipendenti per individuare opportunità e criticità per la popolazione over 50. Chissà che cosa ne è venuto fuori? Sei curiosa di saperlo, Nicoletta? Molto, perché il tema, devo dire, mi tocca molto da vicino. Io sono vicino al traguardo, ancora qualche anno, però insomma è bene preparata. Io ormai ci sono. E vabbè, allora vediamo un po' se e meno ci può... male. Esatto, brava. E meno male. Vediamo se ci racconta, se ci dà qualche spunto concreto Luca Lorenzini, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi dica se dico correttamente la sua qualifica, Solution Design Manager di Randstad HR Solutions. È corretto, questa è la mia qualifica. Soprattutto lei ha curato la ricerca della quale parliamo questa mattina e segue il tema Age Management Over 50 Regeneration per Randstad. Sì, esatto. Questa è in realtà la terza ricerca che Randstad pubblica negli ultimi 4 anni sul tema della gestione degli over 50, perché ci siamo accorti di fatto che è un trend, no? L'Italia è un paese che invecchia, ormai è una cosa nota a tutti. Nel 2011 addirittura il tasso di mortalità ha superato il tasso di natalità, quindi questo è un dato che ci dice che nei prossimi anni, nel tempo, questa situazione è destinata a perpetrarsi. Difficilmente interromperemo, ecco, questo trend di invecchiamento se questi sono i dati in questa fase. Quindi è un tema anche per il mercato del lavoro, perché la demografia ovviamente ha un risvolto diretto anche sul mercato del lavoro. Ci siamo accorti che in pochi anni le aziende, nel 2034 per esempio, abbiamo stimato insieme all'Istat che l'incidenza della popolazione over 50 sulla popolazione attiva sarà altissima. Si parla di 23 milioni di persone che lavoreranno nelle nostre aziende e avranno più di 50 anni. Cosa intende per popolazione attiva, Lorenzini? Popolazione attiva intendo popolazione impegnata attivamente all'interno del mercato del lavoro, quindi o occupata o in cerca di occupazione. Tutto il resto che è stato scoperto appunto analizzando queste 300 aziende italiane, adesso Lorenzini ce lo racconterà, ma ci dia un po' uno spunto per i nostri amici che ci seguono da casa. Come possiamo coinvolgere i nostri ascoltatori su questo tema questa mattina? La vostra indagine è molto focalizzata naturalmente sull'atteggiamento delle aziende, ma vogliamo avere qualche informazione specifica anche dai diretti interessati, dagli over 50, Lorenzini? Ma allora, noi abbiamo a questo fine abbiamo pensato di lavorare anche insieme a un grande campione che tutti conosciamo, Beppe Bergomi, proprio perché riteniamo che al di là dell'impatto sulle organizzazioni, quindi imprenditori, manager che devono tenere in considerazione e gestire questo trend di cui abbiamo parlato, di invecchiamento della popolazione, c'è poi anche un riscontro sui singoli uffici, sui singoli team di lavoro, no? Che si trovano per la prima volta nella storia a essere composti da persone persone di generazioni molto diverse. Pensiamo per esempio a persone nate negli anni 50, i cosiddetti baby boomer, che oggi si trovano al tavolo e a collaborare con persone della generazione Y, quelli nati fino a poco prima dell'inizio del nuovo millennio, e a breve entreranno nel mercato del lavoro quelli della generazione Z, quindi giovani che condividono molto poco, diciamo così, con le persone più senior, sia in termini di linguaggio, di competenze di base, di livelli di digitalizzazione e anche di quello che insomma il ragazzo si aspetta dall'azienda, no? Quello che si aspetta una persona di 60 anni dal proprio lavoro è fondamentalmente molto diverso da quello che si può aspettare un giovane ventenne, 25enne, ecco, di oggi. Quindi come fanno a stare insieme questi gruppi? Esatto, questa quindi chiediamolo all'over 50, nel caso in cui si sia trovato in un determinato momento della propria carriera professionale ad interagire con appartenenti alla generazione X o Y, quindi anche con qualche millennials magari, come ha interagito, se ne ha trovato giovamento anche grazie al nuovo linguaggio magari che queste generazioni utilizzano, o se si è sentito magari in difficoltà, un po' messo da parte perché la sua esperienza magari non era più adeguata rispetto alle nuove competenze che queste giovani portano. Per cui over 50, chiamateci all'800 24 00 24. Naturalmente se sono al lavoro sarà un po' difficile che stamattina ci chiamino, ma magari qualcuno fa anche un lavoro un po' mobile, no? Che ne dici, Nicoletta? Così magari assolutamente, e quindi potete raccontarci, certo, e raccontarvi all'800 00240024. Noi come andiamo? In che senso? No, che io i 50 ce li ho e tu i 50 non ce li hai ancora. Anche noi due siamo una coppia, ecco, di, no, che rientra un po' nella trattazione di questo, esatto, di beh, questo devo tema. Dire che noi ci facciamo questa domanda quando per esempio vengono a lavorare con noi gli assistenti ai programmi, che naturalmente sono molto più freschi. Io per esempio ho avuto un grande dibattito con Marco Lombardo, che peraltro dopo il suo congedo matrimoniale torna mercoledì, per l'utilizzo di Twitter. Io non ne volevo sentir parlare perché per me era troppo complicato impegnarmi in quel dialogo quotidiano magari con gli ascoltatori. Lui un giorno mi ha preso, senti, mi ha detto te lo faccio io, ma non è e possibile, basta, che tu non sia sulle social network, quel social network. E gli esperti ci dicono, esatto, che per mantenere il cervello attivo bisogna sempre imparare qualche cosa di nuovo. Infatti, e questa resistenza, ecco, ad imparare è un segnale che dovremmo considerare con grande attenzione. Quindi Lorenzine, tanto per darvi uno spunto, anche qualche under 50 è un po' problematico come me. Assolutamente, assolutamente. Gli viene da ridere perché lui però ce l'ha ancora molto lontano il traguardo. Esatto, ma toccherà lui anche voce, lei. Ha la voce giovanissima. Glielo allora auguro. Sì. Senta, che cosa avete chiesto a queste aziende interpellate, alle 300 aziende italiane che avete indagato sulle politiche di gestione e valorizzazione degli over 50? Avete fatto delle domande mirate, come le avete trovate? Quindi andiamo prima alle domande e poi ci racconta cosa avete scoperto. Ok, allora noi abbiamo proposto un questionario composto da 40 domande a 300 aziende sul mercato del lavoro italiano. Il 94% dei rispondenti era appartenente alla funzione di risorse umane, di gestione delle risorse umane, e il 6% invece era top management, quindi o alti dirigenti oppure piccoli imprenditori. Abbiamo chiesto in queste 40 domande, abbiamo cercato di capire come si muovono le organizzazioni veramente, al di là di quello che dichiarano, su 9 dimensioni chiave. Quindi abbiamo chiesto, signori, eseguite regolarmente, più o meno regolarmente, una mappatura della vostra popolazione aziendale per capire in che modo la singola persona può essere spesa diversamente all'interno dell'azienda al crescere dell'età? Quindi che cosa è in grado di fare, che cosa ha voglia di fare, che cosa ha voglia di apprendere e in che modo possa essere utilizzato questa persona sempre meglio, mantenuto in produttività sempre di più anche al crescere dell'età. Prima variabile. Poi abbiamo chiesto se si fa qualcosa, se fanno qualcosa in termini di gestione del mix generazionale, quindi il fenomeno di cui ho parlato prima, stessi nei team di lavoro composti da generazioni molto diverse. Quali sono le attività che mettete in pista per far funzionare questi team? Ecco, questo abbiamo chiesto. Se si adottano forme di flessibilità del lavoro, per esempio, se si ridisegnano i processi lavorativi e le postazioni anche di lavoro in funzione di un cambiamento al crescere dell'età, della capacità di movimento anche, per esempio, della persona che cambia con il tempo e quindi non sarà mai, certi lavori lo sappiamo sono particolarmente pesanti, quindi al crescere dell'età sono anche sempre meno realizzabili anche da un punto di vista fisico. Ci sono politiche retributive che cambiano al variabile dell'età, per esempio, abbiamo chiesto, un'altra di queste variabili era questa. Insomma, il check-up è stato molto dettagliato. Il risultato che ritenete sia stato il più sorprendente che avete riscontrato appunto nell'esperienza delle 300 aziende monitorate, Lorenzini? Allora, sono, devo dire, tutti abbastanza sorprendenti. Uno di quelli che balza all'occhio è sulla mappatura, perché noi che ci occupiamo di consulenza sappiamo che qualsiasi cosa dobbiamo, qualsiasi azione dobbiamo fare, qualsiasi progetto dobbiamo implementare, dobbiamo iniziare a misurare. Si parte da dati certi, ovvio. Esatto. E il 50% delle aziende, poco meno del 50% delle aziende, dichiara di realizzare una mappatura costante della propria forza lavoro per prevenire appunto obsolescenza professionale o fenomeni di calo di produttività. Però, andando poi in dettaglio su questa analisi, si scopre che meno di un quarto dichiara di fare questa mappatura con un buon grado di profilazione, quindi con dati che poi possono veramente servire a qualcosa, diciamo, e addirittura il 13%, quasi il 14%, che è il dato più alto dei non sa non risponde che abbiamo raccolto in questa ricerca, dice che non ha idea di quelli che sono gli eventuali problemi di produttività e di motivazione delle proprie persone over 50. 14% dato molto alto. Secondo lei come mai ci sono queste, tra virgolette, mi passi il termine, lacune? Che dimensione avevano intanto le aziende interpellate? Perché vorrei capire se è un problema proprio legato anche alle caratteristiche dimensionali, visto che ancora il nostro tessuto economico produttivo è fatto di tante PMI, per cui c'è anche questo come problema, oppure come dire, questa difficoltà nel mappare le condizioni interne è determinato da altri limiti, da altre circostanze? Allora, le aziende, abbiamo intervistato tre campioni di aziende, sotto i 350 dipendenti, poi una parte centrale tra i 350 e i 500 dipendenti e poi un campione era oltre i 500 dipendenti. Quindi queste erano le dimensioni delle aziende intervistate. Devo dire che il focus per quanto riguarda queste risposte è sulla grande azienda, quindi quella con oltre i 500 dipendenti, che dichiara di mappare, ma di fatto di mappare non proprio così bene. Ecco. Le aziende più piccole devono ancora arrivare al livello di maturità, diciamo, per cui vanno a mappare. Lorenzini, mi dia, allora utilizzerò un termine anche parzialmente calcistico, che lo vuole dire Nicoletta, no, perché no, le piace un sacco, perché vai. So che ci sono troppe S e tu non lo vuoi dire volentieri, però dai. No, non voglio dirlo. Allora, sono troppo coinvolta, anche emotivamente. Esatto, che il marito di Nicoletta è un grande tifoso nerazzurro e oggi non può sentire la trasmissione, quindi mi gongolerò con Carlo di questa eccezionale opportunità che io ho avuto, perché Randstad, come testimonial dell'evento di diffusione di questa ricerca, ha scelto un grande campione. Sia nel lavoro che nella finanza spesso ci si avvale dell'esperienza di figure che appartengono al mondo dello sport, dal quale si possono mutuare molti concetti che si abbinano bene a vari contesti economici, soprattutto quando lo sport deve raccontare come si lavora in team, in squadra, come devono relazionarsi le giovani generazioni con quelle che hanno più esperienza. Insomma, sentiamo, l'ho presentato bene Lorenzin? Lei prima ce l'ha detto che sarebbe venuto da noi, però io ho voluto rifargli un po' un adeguato biglietto da visita. Beppe Bergomi, punto di riferimento per almeno 4 generazioni di calciatori. Buongiorno Beppe, benvenuto tra di noi. Grazie, un piacere Debora. Lo so che è un grande amico di Cuore Denari, Beppe, lo sai? Me l'hai detto e speriamo di averlo presto qua con noi, esatto, in studio per autografi, foto, ma anche per raccontarci anche altre cose, magari ci racconta come si tiene in forma, volentieri, il suo stile di vita, insomma come lo gestisce. Beppe, allora, il più giovane campione del mondo, 18 anni nel 1982, ce lo ricordiamo, prima parlavo con l'altro assistente, con Leonardo, che è dell'88, gli parlavo dei campionati dell'82, mi guardava come se stessi parlando della preistoria. A 35 anni capitano dell'Inter, e insomma, come gestire l'ingresso dei diciottenni nello spogliatoio? Ma per quanto mi riguarda, sono nell'82, secondo me Randstad ha scelto me perché io sono stato un giovane vecchio, avevo i baffi nell'82. Ce lo ricordiamo. Un giovane vecchio è troppo carino. Vabbè, sei guadagnato anche l'appellativo di nonno non a caso poi, no? Sì, no, di zio. Di zio. Scusami, guarda, hai fatto la gaffe. Sì, adesso stavo pensando un'altra cosa. Vabbè, nell'82 sono entrato in uno spogliatoio di grandi uomini e di grandi giocatori che mi hanno aiutato tantissimo. Io ho cercato di farmi voler bene, intanto in punta di piedi, senza però insomma mettere in mostra le mie qualità, perché quando vai sul campo poi devi far vedere quello che vali e vieni apprezzato maggiormente. Quindi io, loro mi hanno aiutato tantissimo, soprattutto anche i miei compagni dell'Inter, ero giovanissimo, eravamo in cinque di quella squadra, e poi insomma i vari Zoff, Tardelli, Gentile, il povero Gaetano Scirea, sì, sono stati veramente di grande aiuto per me in quel 1982. Invece nel 98, quando sono diventato campione del mondo, poi capitano dell'Inter, così, lì ero io un punto di riferimento per i giovani, che giovani secondo me diversi, perché i giovani negli anni sono sempre secondo me maturati, sono cresciuti, sono diventati anche più preparati e arrivano all'interno di uno spogliatoio con più conoscenze rispetto a quello che eravamo noi nell'82. Però il mio riferimento era quello di far capire a loro, attraverso l'esempio, io non sono stato mai uno che parlava molto, attraverso l'esempio e i comportamenti, di far capire il valore della maglietta della nazionale azzurra, che è unica, oppure insomma per chi arrivava all'Inter, i giovani che arrivavano, far capire qual era la storia di quella squadra, i valori insomma che incarnavano, e attraverso l'esempio, i comportamenti, di arrivare prima all'allenamento, andare via per ultimo, insomma tante cose, tanto sì insomma che potevo essere un esempio per i giovani. Certo, senti, uno spogliatoio è una condizione naturalmente molto diversa rispetto ad un'azienda, ma rispetto ad un imprenditore che magari ci sta ascoltando in questo momento e che vive in questo momento nella sua azienda proprio la questione della relazione fra il cinquantenne over cinquantenne e i giovani che si stanno provando appunto a farsi strada, diamo due consigli su come poter agevolare al meglio questa redazione dalla tua esperienza, Beppe. Perché la figura dello zio dovrebbe essere tradotta anche nel lavoro, mi piace, la figura dello zio è una figura chiave. È un riferimento soprattutto in termini di esempio. Alle giuste distanze. Mm-hmm. Beppe. Ma sì, per quanto riguarda, diciamo, io mi sono trovato in tutte e due le situazioni, no? Io a 35 anni è stata forse l'esperienza più bella, il campionato più bello, perché sono tornato a fare un campionato del mondo, ma ho trovato un allenatore che mi ha dato fiducia, che non ha guardato in faccia la carta d'identità, ma ha detto per me gioca chi sta meglio, chi si impegna di più, e quindi per me è stato veramente un anno importante capire la fiducia dell'allenatore. Invece per quanto riguarda i giovani, guarda, io ho avuto sempre un buon rapporto con tutti, poi magari ti vai a scontrare quando quel giovane viene a giocare nel tuo ruolo e magari tu glielo prendi, cioè tu continui a mantenere quella posizione, ma devo dire che la verità, come ho detto prima, i giovani devono, soprattutto in questo momento, quando entrano in uno spogliatoio, entrano con tante conoscenze in più, perché arrivano da un settore giovanile fatto in maniera diversa e vengono accettati maggiormente. Una volta, nei primi anni Ottanta, entrare in uno spogliatoio non era sicuramente facile, rispetto adesso che invece... Lo si doveva proprio guadagnare e sudare, in sostanza. Bravissima. Io ho visto tanti giovani andare a scontrarsi con Alessandro Altobelli, non so, il centravanti, che... Per lui era un battesimo per tutti noi difensori quando si entrava nello spogliatoio a confrontarsi con lui. Adesso secondo me è un po' più facile. Grazie Beppe, grazie molte per il tuo contributo, la tua testimonianza. Chiudo con un messaggio con Luca Lorenzini di Randstad. Che come dire, ricadute concrete vi aspettate rispetto a questa indagine che avete fatto, Lorenzini, in 30 secondi? Ma allora, ci aspettiamo sicuramente di contribuire a diffondere la consapevolezza su tutto il tessuto imprenditoriale e manageriale in Italia dell'importanza di questo trend di invecchiamento della popolazione, che va preso in mano e va gestito in qualche modo. La ricerca ci ha dato l'opportunità di avere una base dati in questo momento attraverso la quale siamo in grado di restituire a qualsiasi azienda almeno un benchmark di posizionamento rispetto a cosa fanno loro. Compilando lo stesso questionario che hanno compilato le 300 aziende, siamo in grado di dire ok, tu vai bene su questa dimensione, devi un po' lavorare invece magari su quest'altra. Quindi prima cosa, riusciamo a dare qualche punto di riferimento per guidare l'azione. Seconda cosa, il consiglio ovviamente è grande attenzione alla mappatura della popolazione aziendale. Noi abbiamo costruito dei sistemi per riuscire a farlo in questi anni ovviamente, e attenzione ai team di lavoro. Inserire la figura dello zio è veramente una provocazione, ma è veramente la cosa giusta da fare, nel senso che ci vuole uno zio al tavolo per far sì che persone di generazioni così tutor, diverse... Un tutor, perché altrimenti non avremmo neanche istituito in Italia tutto il percorso dell'apprendistato, l'alternanza scuola-lavoro, quindi è evidente che nell'ambiente di lavoro di figure di riferimento c'è bisogno. Poi chiamiamole come vogliamo, zii, over 50 o quant'altro, esatto. Ma insomma abbiamo assolutamente, sono figure imprescindibili. Grazie a Luca Lorenzini di Randstad, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata. Adesso noi andiamo a brevettare il concetto dello zio sul posto di lavoro, Nicoletta, perché sennò qua ce lo rubano. Sentite, è piaciuta Lorenzini, Lo so che a cuore denari si prendono sempre. Partoriscono delle idee, esatto. E poi le altre le mettono guccina in pratica. Guccina mia, eccoci qua. Andiamo a raccontarvi la borsa adesso, tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cuore e denari. L'uomo è un animale e la sua felicità dipende dalla sua fisiologia più che egli non ami pensare. Questa è un'umile conclusione, ma non posso convincermi che sia errata. Sono convinto che molti uomini d'affari molto infelici aumenterebbero la loro felicità assai più se facessero a piedi 10 chilometri tutti i giorni, che non per mezzo di qualunque cambiamento di filosofia. Questa, detto per inciso, era l'opinione di Jefferson, che per tali motivi deplorava l'uso del cavallo. Bertrand Russell. Una bella voce che legge una bella frase, la bella voce è quella di Maurizio Esposito, che ci accompagna in questi è ritornato tra di noi. Allora lo salutiamo. Allora, e questa è la ricetta della felicità di Bertrand Russell: percorrere a piedi ogni giorno 10 chilometri. Ma noi lo sappiamo bene, i benefici non finiscono qua, lo sapete meglio di me, ne abbiamo parlato tante volte, anche delle ricadute sul nostro benessere psicofisico di questa attività che, oltre a essere salutare, è amica del nostro portafoglio, Deborah, e questo ci piace molto. Ah sì, guarda, io sono allora sponsor. Perché non richiede grandi investimenti, è alla portata di tutti, ed è per questo che nella giornata dell'Obesity Day, in inglese, mi dispiace Riccardo che ci sta veramente bacchettando. Abbiamo tradotto di tutto stamattina. Ci sta bacchettando, ha ragione. Io poi l'inglese non lo uso con piacere perché non lo so, e quindi però questa giornata la chiamano così, giornata per la prevenzione dell'obesità. Il cammino diventa il grande protagonista di questa giornata, perché è importante non solo quello che mettiamo nel piatto, la scelta degli alimenti che facciamo, ma anche come e quanto ci muoviamo. In teoria lo sappiamo tutti, ma facciamo sempre fatica a passare dalla teoria alla pratica. Chissà che oggi non sia la volta buona. Allora ci aiuta il dottor Massimo Gualerzi, che è tornato a trovarci, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore di Super Salute e della dieta Super Salute. Buongiorno e bentornato, dottor Gualerzi. Buongiorno a tutti voi. Dottore, allora, il cammino è un'attività aerobica e questo le piacerà molto come cardiologo, perché l'attività aerobica fa bene al cuore, lo aiuta a mantenersi sano perché riduce i fattori di rischio che lo minacciano, chilometri dopo chilometro aumentiamo il nostro capitale salute, e quindi il cammino non solo ci aiuta a sfilare un po' la figura, ma aiuta anche il nostro cuore. Direi proprio vero, è proprio così. Tra l'altro, obiettivamente, se anche quando parliamo di pigrizia, nel senso che è difficile fare movimento, più che altro forse le persone mancano nella visione globale degli obiettivi, degli scopi da raggiungere. Se pensiamo che al di là del perdere peso, porsi come obiettivo quello di guadagnare in salute, ecco, questo magari potrebbe mettere un pochino più di voglia alle persone di intraprendere la camminata, perché è lì che parliamo proprio di quello. Parliamo che al di là del perdere peso, che alcune persone potrebbero non essere così interessate, non motivate, diciamo che dietro ci sta tutto degli lati legati al nostro benessere psicofisico, ormonale, a invecchiare diciamo più lentamente o comunque a mantenersi giovani dentro, che sono tutte azioni che la camminata fa. E quindi credo che bisogna agire in questo senso proprio per lavorare in modo organico sul nostro corpo e perdere peso, forse è la punta dell'iceberg. 800 24 00 24, se volete raccontarci che cosa state facendo per mantenervi in forma, se siete dei camminatori, se camminate, se avete scoperto quanti benefici vi possono apportare questi pochi passi al giorno. In realtà, dottor Gualerzi, l'OMS ne raccomanda 10.000, che sembrano per molti un traguardo irraggiungibile e non conciliabile con i ritmi della quotidianità. 10.000 passi sono all'incirca 7 chilometri. Però io invito sempre a non farci impressionare dai numeri, perché se si pensa che una persona in una giornata qualsiasi, guardando le vetrine, buttando la spazzatura, passando l'aspirapolvere, compie 5.000 passi, 3 chilometri e mezzo circa, l'obiettivo è tutt'altro che impossibile. Un po' più di fatica aspetta ai sedentari, che mediamente, secondo sempre le stime, compiono tra i 2.000 e i 2.500 passi, ma sono anche coloro che possono più beneficiare dei piccoli progressi. Ad esempio, 400 metri in più al giorno per un sedentario possono davvero fare la differenza. È d'accordo, dottor Gualerzi? Sono d'accordo, anche se aggiungo un'altra cosa, che invece di puntare anche lì a questi 10.000 passi, che sono 7 chilometri, che possono impressionare, anche se, come ha detto lei, in questo momento basta poco per raggiungerli o basta poco in più, guardiamo anche alla qualità, cioè non solamente la quantità. Quindi diciamo, poniamoci come obiettivo magari di non riuscire a fare 7 chilometri, ma qualitativamente di renderli veramente un pochino più intensi, un pochino più di attivare un pochino più il nostro metabolismo, perché molta gente, diciamo, si trascina per 10 chilometri e questo sicuramente non è, o per 7 chilometri, questo non è così benefico come magari farne un po' di meno, ma metterci della qualità, cioè aumentando un pochino l'intensità della camminata, camminando un po' in salita, e questo poi, diciamo, i 3 chilometri fatti così possono valere i 7 fatti in piano. Per questo, per farlo bene, mi ha dato, adesso lo devo dire io, assist. Vedo, ti è toccato. Straordinario, perché in linea con noi abbiamo Maurizio da Milano, campione olimpico di marcia, istruttore di fit walking. Anche qua facciamo una traduzione, ma chiederò subito a Maurizio se è corretta, che possiamo tradurre come l'evoluzione sportiva e salutistica del cammino. Ciao Maurizio e bentornato. Buongiorno a tutti, grazie mille. Grazie, sì. A te, va bene come traduzione di questo fit walking? Dammi subito una parola in italiano, così ma siamo contenti una parola, tutti. La parola in italiano potremmo dire che camminare bene per stare bene, più che una parola è una frase, uno slogan, ma indubbiamente quello che avviene utilizzando il cammino, e io sono perfettamente d'accordo con il dottore, un cammino a passo svelto, un cammino dinamico che permetta al metabolismo di muoversi in maniera più decisa rispetto ad una semplice passeggiata. Ecco, il fit walking in fondo è questo, una camminata dinamica, una camminata a passo svelto, dove la tecnica di cammino, quindi il camminare bene, diventa elemento essenziale anche per poi raggiungere quegli obiettivi che sono il camminare un briciolino un po' più intensamente. Infatti tu, Maurizio, hai detto camminare bene, che è anche il titolo del tuo libro, Fust Editore. I passi bisogna farli bene. Su questo aspetto siete tutti d'accordo? Allora, qual è il passo giusto da tenere per non trascinarci e per far rendere questa nostra attività? Sì, allora diciamo che quando parliamo di cammino sportivo o di fit walking, che è l'espressione, diciamo, più tecnica del camminare sportivo, pur senza essere un'attività di tipo agonistico, ma semplicemente motorio sportiva, che guarda in modo particolare al benessere e alla salute, vi è una indicazione di massima, diciamo così, un po' presa come punto di riferimento e come inizio di questo cammino nella camminata veloce, e sono i 6 km all'ora. 6 km all'ora significa camminare veramente in modo un po' più vigoroso di quello che siamo abituati a fare normalmente durante una passeggiata, e quindi attraverso questo maggior dinamismo nella camminata, che poi è molto semplice, vuol dire utilizzare in maniera più decisa il movimento soprattutto dei piedi, che sono un po' il motore del camminatore, si raggiungono facilmente e permettono all'apparato cardiocircolatorio di elevarsi leggermente di più e quindi avere questi benefici anche sull'ambito metabolico. Allora, ci scrive Domenico dalla provincia di Lodi, ha 40 anni, cammina 3-4 volte alla settimana per 10-11 km per circa un'ora e mezza. Risultato, perso i chili in eccesso e migliorato il mio standard di vita. Maurizio, allora, dipende anche il nostro passo, il ritmo del nostro passo dipende anche dall'obiettivo che ci poniamo. Ad esempio, per chi deve dimagrire può essere utile mantenere un certo passo, e per chi invece vuole mantenere il peso forma, fare bene al cuore, potrebbe esserne sufficiente un altro, o è meglio comunque camminare di buon passo, di buona lena? Ma io, per esperienza personale, tra l'altro, di queste testimonianze in gente che ha iniziato un percorso nel cammino, ne troviamo veramente tantissime, dove i benefici non toccano solo il dimagrimento, ma toccano tantissimi aspetti che riguardano poi la prevenzione salutistica. Beh, è evidente che ognuno ha un po' anche il proprio passo, che è cadenzato un pochettino dalla propria qualità fisica, mentale, psicologica, gli aspetti che lo legano agli obiettivi che vuole raggiungere. Il dimagrimento può essere uno, ma non è il solo. E credo che effettivamente questo sia importante dirlo, perché poi l'utilizzo del cammino in prevenzione primaria, ossia per quelle persone che vogliono allungare il proprio benessere e la propria salute, ma anche in prevenzione secondaria, ossia per quelle persone che già magari afflitte da patologie metaboliche, possono trovare nell'esercizio fisico, il cammino in modo particolare, come espressione di un'attività che tutti possiamo fare in estrema semplicità, un alleato prezioso. Esattamente, perché si unisce poi anche alle cure tradizionali, certo, e riduce la progressione della malattia, ma anche e soprattutto dell'utilizzo di farmaci. Maurizio, chissà i tuoi esami saranno perfetti, perché Luigi da Cagliari ci scrive: con la camminata crolla anche il colesterolo, è troppo carino. Allora, per chi volesse iniziare da oggi, perché non iniziare proprio oggi, Obesity Day, mettere il cerchietto c'è sul... chi chiede come possiamo combatterla, questa pigrizia, cominciate. Bravo, bisogna il primo passo. Allora, per chi volesse iniziare da oggi, grazie ai consigli di Maurizio da Milano, abbiamo postato ogni giorno per una settimana sul nostro sito i consigli del nostro campione. Allora, come passare quindi dalla teoria alla pratica? Camminiamo insieme a Maurizio da Milano, fa anche rima. Maurizio, grazie per essere stato con noi. Grazie, buona giornata, voi, grazie. E grazie per i tuoi consigli. E buona camminata a tutti. Buona camminata anche a te. I consigli di Maurizio da Milano per una settimana li trovate sulla pagina di Cuore Denaro, passo dopo passo, giorno dopo giorno. E noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Il dottor Gualerzi è in linea con noi, pronto a darvi suggerimenti, consigli, a rispondere ai vostri dubbi, a commentare i vostri successi, perché naturalmente vogliamo commentare anche quelli. Vi aspettiamo. Cuore e denari. E noi torniamo insieme al dottor Massimo Gualerzi, che oggi è a nostra disposizione per rispondere a tutti i vostri dubbi e per commentare i vostri successi e insuccessi. Saliamo oggi sulla bilancia, anche se secondo le ricerche non sarebbe il giorno giusto, il giorno ideale per pesarsi, dicono le ricerche, sarebbe mercoledì, perché lunedì sei troppo vicino al weekend dove magari hai fatto qualche stravizietto, e allora il mercoledì è il giorno indicato. Ma in alternativa basterebbe andare indietro nel tempo e pensare a come eravamo a 18 anni e che taglia indossavamo. Tu, Deborah, hai parlato dei cinquantenni, sì, e noi siamo rassegnati che a 50 anni il corpo cambi e di guadagnare qualche taglia, di appesantirci. Dottor Gualerzi, non è detto e non dovrebbe essere così, è corretto? È assolutamente corretto, in quanto diamo quasi per scontato di trasformarci. Obiettivamente molte cose cambiano, cambia anche l'aspetto fisico, normalmente ci adattiamo anche agli ormoni che cambiano durante, non solo per le donne, logicamente. Breaking news. Assegnato poco fa il premio Nobel per l'economia, per le scienze economiche, per la teoria dei contratti, il premio Nobel va a Oliver Hart e a Bengt Holmström. Non ne so nulla, non mi guardare con quest'aria interrogativa, e pensavo che lo assegnassero alle 13, vedi un po' tu. Hanno anticipato, esatto, perché per vogliono, mettermi in difficoltà. Vogliono venire tutti a Cuore Denari. Dottor Gualerzi. Adesso ci andiamo a documentare. Ecco, chissà come se il Nobel, oltre a vincere il Nobel, è anche in forma, ma lo rimetteremo in forma in ogni caso anche a noi, perché non si può mica sempre star seduti, bisogna anche muoversi, mangiare bene, perché anche la testa, vero, ci guadagna. Sì, non so dove siamo rimasti, io stavo dicendo appunto, ci guadagna anche la testa, sto dicendo che da poi si può aumentare di peso sicuramente, ma non è scontato che dopo 18 anni, ecco, finivo il discorso, no, si sia diversi rispetto ad allora, quindi questo è un convincimento che abbiamo e dobbiamo perdere, perché dobbiamo mantenerci più o meno dello stesso peso tutta la vita, e dopo i 18-20 anni quello dovrebbe essere il peso da, diciamo, raggiungere o da mantenere per tutta la nostra vita. È sufficiente continuare a fare le stesse cose. Certo, per se a 18 quanto... anni eravamo in forma. Allora, mi scusi dottor Gualerzi, perché volevo coinvolgere i nostri ascoltatori chiedendo quante taglie vi separano dai vostri 18 anni. 800 24 00 24, perché ci sono dei diciottenni che magari erano robusti a 18 anni e poi nel corso degli anni si sono anche sfilati un po'. Dottore. Certo, questo è senz'altro indubbio. Ci sono persone che prendono più consapevolezza dopo i 18 anni, iniziano a lavorare sul proprio fisico, sulla propria alimentazione. Il discorso è che non dobbiamo rassegnarci al fatto che tanto sia così, questo vale per tante cose. Infatti diamo quasi per scontato che dopo i 50 anni sia naturale prendere farmaci, sia naturale essere diversi, ma questo non è vero. Se continuiamo ad usare l'approccio mentale, la testa, fare attività fisica, mangiare bene e dedicare tempo alla nostra salute, questo non è assolutamente vero, e quindi possiamo essere dei cinquantenni, dei sessantenni, ma anche oggi dei settantenni e perché no degli ottantenni in piena forma. Allora, abbiamo in linea con noi Maria da Bari e Vincenzo da Livorno, li sentiamo entrambe per un commento del dottor Gualerzi. Maria, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, sempre molto interessante. Grazie. Io un paio di anni fa mi sono imposta di fare una camminata veloce tutte le mattine, 2,5 chilometri circa ogni mattina, per cercare di mantenere un peso forma. Complessivamente ho preso qualche chiletto rispetto agli anni passati, ho 57 anni, però continuo a farlo perché complessivamente mi sento molto bene. Non vado in palestra e questo però mi aiuta molto anche a livello di respirazione. Ho un problema, ho una coxoartrosi all'arto sinistro e volevo sapere se facendo questa camminata tutte le mattine ci sono delle controindicazioni. Per il resto curo un po' l'alimentazione. Brava, anche Maria. In casa, proprio perché mi piace il pane integrale, cerco di fare insomma quando posso. E poi la cucina pugliese, la straordinaria cucina, esatto. Andiamo a Vincenzo da Livorno, vediamo come se la cava. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, io ho il problema forse opposto, perché mi ritengo un grande camminatore e mi piacciono i grandi cammini. Quest'estate in 15 giorni ho fatto anche l'Alta Via 1 e 2 in Val d'Aosta. Complimenti. E quindi? Grazie. E quindi volevo capire dal dottore fino a che punto ci si può spingere nei chilometri senza avere dei problemi alle articolazioni. Grazie anche a Vincenzo. Due facce della stessa medaglia, dottor Gualerzi? Sì, direi di sì. Allora, sicuramente fino a dove ci si può spingere dipende dall'allenamento che si ha e delle proprie capacità. Esistono delle doti intrinseche, quindi ad esempio Maurizio da Milano avrà sicuramente un motore diverso da quello che posso avere io o una persona normale, però è anche vero che con l'allenamento ci si può spingere oltre quelle cose che normalmente si fanno. Quindi la risposta è dipende da che allenamento. Quindi allenandoci in modo propedeutico siamo in grado di fare cose anche che non avremmo mai immaginato possibili. Fa eco il fatto, senza avere problematiche osteoarticolari, oppure la signora di prima che aveva problemi. Ecco, io dico una cosa, la camminata è fondamentale. Quando sicuramente la camminata usura le articolazioni, questo implicito, intrinseco nel gesto in cui stiamo facendo, sarebbe fondamentale per tutti quelli che fanno anche una camminata o che si spingono come il signore a fare cose anche un pochino più impegnativo, fare un po' di attività muscolare propedeutica, perché sappiamo che se tonifichiamo la massa muscolare, se ad esempio facciamo un buono stretching, ecco che questo è una sorta di barriera di difesa per le nostre articolazioni, perché avere un muscolo tonico, un muscolo elastico, protegge le articolazioni dall'usura che andiamo a provocare durante la camminata. Tendo sempre però a ricordare che è un effetto collaterale, l'usura articolare, del tutto, diciamo, congruo, comunque, che possiamo tranquillamente correre questo rischio, perché per sono molto migliori i benefici che abbiamo rispetto al rischio. E sono benefici misurati, e quindi lo sottolineo per un ascoltatore che ci scrive: ma no, camminare non serve a niente. Provi a camminare anche lei, che apre anche la mente il cammino. Dottor Gualerzi, torneremo su questo aspetto e le auguro una buona giornata, buon cammino. Noi camminiamo nelle nostre scrivanie, esatto, e ritorniamo qua domani. Buona giornata.